interventi sono da quel lato. Come cominciate? Quasi sono messi da quel lato apposta. No, stavano lì da prima. Sono arrivata a voce, cercavo di capire se era strategica la voce. Scusate se leggo, io ho sempre un sacco di ansia quando devo parlare in pubblico, quindi devo gestire in qualche modo il tempo. La voce è alta però. Lo so, è anche questo, parte dell'ansia, di solito non riesco a parlare a voce alta. Vabbè, io volevo ripartire dal discorso che aveva fatto Graziella e Porpora ieri. E in particolare una frase che aveva letto Graziella dal libro, il documento di Giuffrida, Giuffrida si chiamava. Sì, allora. La frase è: il capitale vuole a suo favore la lotta di classe. Secondo me questa è una frase molto significativa di tutta la giornata di ieri. Cioè il capitale, ma potremmo anche dire il potere eteropatriarcale, insomma quella roba che hanno detto loro, mette a valore anche le proprie sconfitte attraverso il meccanismo democratico della delega, l'oblio, la criminalizzazione, che sono tutte cose che aveva chiamato in causa Porpora, oppure io aggiungerei il riformismo liberale, che secondo me è un'altra di quelle componenti che consente di mettere a profitto la lotta di classe. Anche se questa è un'epoca di trasformazione del capitalismo e di ridefinizione di queste strategie, secondo me non c'è nessun contraddittorio, né ci sarà nessun contraddittorio tra la democrazia e il capitale, come diceva ieri qualcuno, Filippo, credo che adesso non so dove sia, eccolo lì. Proprio perché la democrazia è esattamente uno di quegli strumenti per regolare il conflitto e metterlo a sistema. Parto da molto lontano, poi in realtà arriverò alle questioni del workshop. Una seconda questione che vorrei mettere in evidenza riguarda sempre qualcosa di cui si è parlato ieri. Ieri si è parlato tanto di quali obiettivi dobbiamo porci per portare una proposta politica più efficace di quella del qualunquismo di destra che sembra sempre di più occupare spazio nel movimento LGBTQ. E qualcuno ieri, tra l'altro, l'ha anche detto, in tutto questo discorso si è dimenticato un elemento fondamentale, cioè la rilevanza, la centralità del conflitto. Cioè, lo scopo del conflitto di classe è, secondo me, il conflitto. E se vogliamo, questo sostanzialmente è l'analisi marxista, cioè lo storicismo marxista dice sostanzialmente quello. La storia è caratterizzata dalla continuità degli antagonismi tra le classi, sostanzialmente. E secondo me il senso di quello che diceva ieri Porpora sulla genealogia del movimento, che a un certo punto si è interrotta, è proprio questo. Cioè quando il movimento dimentica da dove è venuto, qualcuno potrebbe anche dire, cioè quando si rinuncia alla battaglia per l'egemonia culturale, questo diceva Elena ieri sera, io invece preferisco dire quando si rinuncia a quell'antagonismo di classe, che è una parola per me ha significato, anche se ieri si è usata questa parola per identificare tutto ciò che è stigmatizzabile, a favore di un atteggiamento liberal-riformista, ecco che automaticamente quella battaglia è persa. Cioè il capitale ha volto già a proprio tornaconto la lotta di classe, così come la Graziella ieri. Una terza cosa che volevo dire, che chiarisce un po' il senso di questo antagonismo di classe, cioè in che senso ha, è riguardo alle contestazioni studentesche di dicembre, che io ritengo pregne di senso politico in sé. Cioè quella giornata secondo me è esemplificativa di che cosa significa movimento di massa, cioè proprio letteralmente, cioè una massa di persone che ha come strumento di pressione l'esercizio del proprio essere massa. Una massa di quindicenni che è in grado di mettere a ferro e fuoco la città quando meno te l'aspetti. Questa non è una capacità negoziale che ha un obiettivo, il quantificabile, è di per sé un contenuto, è un significato politico. E questa massa fa paura a quel potere proprio perché è in grado di metterne in crisi tutte le strategie di controllo, perché nega le sovrastrutture della lega democratica e quindi si sottrae a quel addomesticamento, a quel controllo che il potere le impone. Per esempio, non è un caso che parliamo di paradigma securitario, ne parliamo ormai da anni, cioè la conflittualità sociale diventa un problema di ordine pubblico, viene ridotta a problema di ordine pubblico, perché trasformandolo in problema di ordine pubblico si tenta di sparigliare le carte continuamente a un movimento che prende coscienza di sé come classe. e conosciamo appunto bene questo paradigma. Oppure un altro metodo più subdolo, secondo me, di controllo, di addomesticamento e di repressione di questo conflitto, oltre a quelli che sono stati detti ieri, sostanzialmente l'oblio, la criminalizzazione, il riformismo e quant'altro, è quello che ha adottato la stampa di sinistra, che sembra così liberale appunto. Che è stato, sostanzialmente si è espresso nel negare insistentemente, anche di fronte all'evidenza, che della gente potesse essere sinceramente molto, molto incazzata per quello che stava succedendo. E da allora si è inventata il teorema dell'infiltrato, che poi si è rivelato ovviamente una bufala e tutti hanno fatto una grossissima figura di merda e se lo meritano. Cosa c'entra tutto questo con la questione dell'intreccio tra razzismo e movimento LGBTQ? Astraendo molto, possiamo dire che i movimenti femministi prima e i movimenti LGBT dopo hanno sempre riflettuto sul loro ruolo problematico all'interno di quei processi storici che hanno visto l'emergere dei paradigmi globali, cioè hanno una volta costituiti di classe e innescato il conflitto, si sono resi cioè hanno sempre riflettuto sul loro ruolo funzionale al potere, cioè hanno fatto sempre un esercizio autoriflessivo. Il femminismo afroamericano, per fare degli esempi, e postcoloniale, ha scoperchiato il vaso di Pandora delle connivenze tra una parte del femminismo bianco con il colonialismo e l'imperialismo. Su un altro fronte, il movimento delle donne e delle lesbiche ha problematizzato la retorica dei diritti umani, criticandone l'impianto patriarcale, assimilazionista ed eteronormativo. I movimenti LGBTQ da parte loro, specie nell'ambito delle organizzazioni dei social forum, hanno preso in considerazione come il concetto di cittadinanza sessuale abbia definito i contorni di un patto neoliberista che garantiva ai gay e alle lesbiche di fatto solo una cittadinanza economica. E ancora più di recente, tanto i movimenti femministi che queer hanno denunciato come concetti quali democrazia, diritti umani e laicità siano stati usati selettivamente dall'Occidente per sostenere l'impianto della guerra al terrore, ultima tra queste sfide globali in una cornice omonazionalista e omoimperialista. Io posso dire di essere cresciuta politicamente, nonostante io non sia giovane, però ho un'esperienza molto limitata, e sono cresciuta politicamente, devo tutto sostanzialmente all'esperienza che ho fatto in Facciamo Breccia, e mi ricordo bene come dei gruppi che ugualmente si occupavano di laicità hanno sempre fatto delle pressioni continue per far inserire nella piattaforma una critica, per esempio, al fondamentalismo islamico. Era puntualmente, arrivava questo appuntamento, e per fortuna però questi tentativi sono stati sempre schivati abbastanza consapevolmente. Questo per dire che, per ritornare al discorso che stavo facendo in origine, il capitalismo neoliberista, neoimperialista, eteropatriarcale, cioè quella cosa di cui ci hanno parlato ieri Porpora e Graziella, ha messo a valore appunto i discorsi sulla sessualità e i movimenti che si sono costituiti intorno alla riflessione sulla sessualità, cioè ad esempio i movimenti femministi, i movimenti LGBT. Per guardare la nostra storia, e questo in maniera anche un po' più generale, possiamo dire che i discorsi sulla sessualità si sono comunque anche di per sé, anche senza la presenza di movimenti, hanno costituito un repertorio di significati che, a cui il potere ha sempre attinto. Faccio un esempio. Il colonialismo, l'imperialismo, le leggi razziali in Italia sono stati sostenuti da precise politiche sessuali che vietavano, per esempio, il matrimonio tra gli italiani e gli ebrei e imponevano sanzioni a chi intratteneva relazioni di carattere coniugale con gli abitanti delle colonie. Questo è un fatto storico. Oggi viviamo all'interno di un paradigma che è contemporaneamente postcoloniale, è caratterizzato da una trasformazione in senso multiculturale delle cosiddette società occidentali, e neoimperialista, cioè caratterizzato dal discorso pervasivo della guerra al terrore. In questo scenario, caratterizzato da questi due nuovi grandi paradigmi globali, ci troviamo quotidianamente di fronte a situazioni che vedono razzismo e sessualità intrecciarsi continuamente. Come donna lesbica che ha partecipato alle mobilitazioni contro la violenza maschile contro le donne, ho beneficiato dell'analisi collettiva che il movimento delle donne e delle lesbiche ha fatto intorno a questa questione, e vi porto un esempio in proposito. Elena ha già parlato del caso della Reggiani, in realtà un po' più vicino a noi a ottobre scorso, se vi ricordate, c'è stato questo roboante annuncio della ministra per le pari opportunità che aveva dichiarato di volersi costituire parte civile contro Ahmad Khanbhut, l'uomo di origine pakistana che a Novi nel Modenese aveva ucciso a colpi di pietra la moglie, non so se vi ricordate questo episodio, ritenuta colpevole di difendere la figlia che si ribellava ad un matrimonio combinato. Ed è abbastanza significativo, abbastanza esplicito, cioè spiega molto i fatti leggere le parole della stessa ministra che si rivolgeva con queste parole alle giovani musulmane. Denunciate, perché l'Italia rifiuta e respinge con decisione qualunque forma di prevaricazione degli uomini sulle donne. Non ci sono alibi né scusanti di alcuna matrice, né etnica né religiosa, dinanzi a questi deliri patriarcali. E poi lancia un appello alla magistratura perché giudichi senza sconti gli autori di questa tragedia, e alle giovani straniere che nel nostro paese stanno costruendo il loro futuro voglio ribadire con forza che devono denunciare ogni sopruso, liberarsi appena possono. Liberarsi dalle catene del patriarcato, ha detto la ministra, che cioè sembra una cosa improbabile da ascoltare. Questo non soltanto sembra improbabile, ma presuppone gioco a forza che non sono vittime del patriarcato, evidentemente, tutte le donne che invece muoiono quotidianamente per mano dei mariti, dei compagni, degli ex mariti, dei compagni familiari a qualsiasi titolo, perché la ministra non dice che sono vittime dell'eteropatriarcato, quindi loro non sono. Ma gli esempi sono anche più spiccioli e appartengono ormai alla quotidianità. Faccio una piccola digressione personale: io e Graziella abbiamo litigato con la vicina del piano di sotto, che ora ci chiama marocchine di merda, perché lei è convinta che noi siamo marocchini, molto evidentemente, Graziella è un fenotipo molto mediterraneo, perché dal piano di sotto blaterava con un'altra vicina dicendo queste donne arrivano, si vestono con questi foulard come vogliono loro e non si rendono conto che questa è un'offesa alla dignità delle donne. Cioè, se piombasse un alieno ora in Italia, direbbe: accidenti, il femminismo ha fatto strada in Italia, no? Cioè, che sulla bocca di tutti ci sia una questione dell'emancipazione delle donne, dei diritti delle donne. Vabbè. Tu sei intervenuta, se no non si capisce. Sì, noi siamo intervenute dicendo delle cose un po' così improbabili, tipo dalla finestra di sopra: la gente li sente, questa è razzista. La signora da quel momento, quando ci vede in ascensore, non ci parla più, si gira dall'altra parte. Ultimamente è venuta al piano di sopra urlandoci che facevamo rumore e per offenderci ci ha detto: siete delle marocchine di merda. E vivete nelle caverne. Sì. E vivete nelle caverne. Fa buoni rapporti di girato. E tutti la tragedia è che non ha capito, cioè non la tragedia, insomma è buffo che non abbia capito che siamo lesbiche, però ha capito che siamo marocchine. La vera vince. E mi dica che siete marocchine lesbiche, può darsi che sotto si libera l'appartamento. Diteglielo, così passate un po' facciamo breccia, come ha detto anche prima Elena, stiamo facendo una riflessione in proposito, vorremmo adottare come una delle categorie di analisi di questo complesso fenomeno che appunto stiamo parlando, quello di democrazia sessuale. Sostanzialmente una delle nostre categorie di analisi sarà appunto questa, cioè a partire dalle riflessioni fatte con la traduzione di Imperialismo Gay, che è uno di questi testi appunto di matrice nord europea che affronta come queste tematiche sull'utilizzo dei movimenti LGBTQ per veicolare discorsi sostanzialmente anti-musulmani, probabilmente molti di voi conoscono di questo testo, e abbiamo fatto una riflessione che fosse un po' più articolata, sostanzialmente, cioè abbiamo cominciato in realtà una riflessione che fosse un po' più articolata. E l'idea è appunto che l'Italia si collochi, come diceva anche Renato prima, con uno statuto speciale sulla mappa di quelle che possiamo chiamare democrazie sessuali, cioè di quei paesi dove c'è un massiccio uso pubblico dei repertori di significato attinente alla sessualità per articolare la retorica della democrazia, spesso in funzione razzista e neoimperialista. Infatti sembra che in Italia questo meccanismo funzioni molto bene per tutte le questioni che riguardano le donne, che viviamo nel nostro quotidiano, come appunto vi raccontavo l'aneddoto, però non funzioni appunto per le tematiche LGBT. A questo proposito, secondo me, i tempi sono maturi per avviare nel movimento LGBTQ italiano una riflessione su questi temi, posto che il razzismo spesso si traduce in un discorso sulla bianchezza, che è un dispositivo discorsivo che si compone di diverse altre dimensioni, come per esempio il discorso della laicità, della democrazia, della parità, intesa come parità di genere, dei diritti, dell'uguaglianza, cioè di categorie liberali sostanzialmente. Insomma, possiamo dire che rispetto alla scena italiana LGBTQ ci sono almeno due riflessioni da fare e dovremmo affrontarle con questo problema. Una prima considerazione è autoriflessiva e concerne quanto partecipiamo di quella bianchezza, noi come italiani. Ieri sono arrivata qui a Mieli e c'erano Elisa e Graziella, facevano un simpatico gioco che tratto da, insomma, questo sul giornale Auto c'è questa storia su l'avete letta quel titolo, ma non trovo. Gay in Algeria, la negazione del proprio essere. E, vabbè, a parte che questo testo, questo articolo attinge a tutti quei repertori della esotizzazione dell'orientalismo più, come dire, triti, possiamo dire. E grazie a lei Elisa facevano appunto un giochetto, sostituivano, ovviamente la storia riguarda questo giovane algerino che lavora in una multinazionale, vive in una città dell'Algeria, adesso non ricordo esattamente quale, però ad Algeri, sì, proprio ad Algeri, e parla di come lui sia costretto a viversi in segreto sostanzialmente, e appunto Elisa e Graziella facevano questo gioco secondo me simpatico, dove sostituendo il nome di questo ragazzo con un nome italiano tipo Antonio. E sostituendo la città di Algeri con una città qualsiasi in Italia, Palermo avevano deciso Palermo. Cioè questo discorso tornava benissimo, cioè voglio dire, ora forse sarebbe una riflessione un po' più complessa che non voglio neanche affrontare, però cioè, se io, senza andare a scomodare il fatto che come dire, non ho potuto fare come coming out nel mio paese, eccetera, io banalmente come donna probabilmente non sarei venuta via da Montoro Superiore, in provincia di Avellino, se avessi potuto andare a vivere per conto mio. C'è qualcun altro di Montoro? Zelensky, io ma no, banalmente se fossi potuta andare a vivere per conto mio, cioè nel senso in quanto donna che decide di andare a vivere da sola, cioè questa roba non è ammissibile nella provincia italiana, cioè penso che forse questa esperienza ci accomuna a molti, almeno di noi probabilmente ci accomuna. Ok, quindi sostanzialmente secondo me una prima riflessione è un'autoriflessione sostanzialmente, e concerne appunto questa riflessione, concerne quanto partecipiamo di questa bianchezza, cioè quanto siamo parte di quelle democrazie sessuali che attingono a piene mani, un po' più a pieno titolo tra virgolette dico, a questo dispositivo discorsivo della bianchezza, banalmente perché si è compiuto quello che chiamiamo il processo di mainstreaming delle tematiche LGBT, cioè si è compiuto il processo dei diritti, oppure banalmente perché sono meno sessiste di noi, perché sono più laiche di noi, probabilmente in altre realtà del nord Europa lo scenario è molto diverso dal nostro. E in secondo luogo andrebbe fatta anche una riflessione su come il movimento LGBT antifascista possa declinare un'efficace critica a quel paradigma delle democrazie sessuali senza adottare dogmaticamente la critica di matrice nord europea, proprio perché ci troviamo in un altro paese, che rischierebbe di trasformarsi in un controparadigma, una specie di formula magica priva di aderenza con la nostra realtà, che evidentemente è molto diversa. E a questo proposito stiamo cercando quindi di organizzare questo convegno che speriamo di lanciare, e quello che vorrei anticipare qui di questo convegno, che probabilmente è anche in materia, non so se Renato ne vuole parlare ancora, e che ha una continuità con quello che ieri hanno detto Graziella e Porpora, un po' più diretta con quello che hanno detto loro, è che dovremmo riflettere su come riportare al centro della nostra riflessione, delle nostre pratiche, in realtà attinenza anche con quello che diceva Elena oggi, cioè penso sia un po' un filo conduttore di questa due giorni. Dunque, come riportare al centro della nostra riflessione, delle nostre pratiche, ormai generalizzate dalla retorica dei diritti, i concetti di liberazione e autodeterminazione, di cui ieri appunto le nostre grandi vecchie ci hanno parlato abbondantemente. Che sono le uniche categorie probabilmente che ci permettono di parlare per noi, cioè in prima persona, senza adottare il meccanismo come dire, paternalista, cioè il tipico meccanismo paternalista è io sono una lesbica liberata, vado a liberare le lesbiche dell'Algeria, per esempio. Quindi questo meccanismo paternalista è un meccanismo che è strettamente intrecciato con il razzismo sostanzialmente ed è anche strettamente intrecciato con l'assunzione di una o la proiezione di una identità vittimizzata nei confronti di questo meccanismo che può funzionare anche in maniera autoriflessiva, cioè penso che una riflessione che è stata fatta già anche qua a Roma è quella sul che cosa implica assumersi un'identità di vittima. Che cosa, come noi ci autorappresentiamo, cosa questo implica rispetto al potere che noi deleghiamo ad altri di liberare noi vittime, cioè un meccanismo che funziona tanto quando diamo la delega, nel momento in cui ci vittimizziamo, tanto quanto noi proiettiamo un'identità vittimizzata su altri soggetti e pretendiamo di come dire, liberare soggetti che riteniamo meno liberati di noi sostanzialmente. Sostanzialmente, vabbè, questo in pratica la lezione, ciascuno parla per sé sostanzialmente, non possiamo fare altro che non far ciascuno parlare per sé. In particolare io ho trovato stimolante una riflessione che abbiamo avviato a Bologna, e questa è un'altra appunto di quelle cose che magari si svilupperanno più avanti, sulla visione no future, cioè su quella traduzione in politica e sulla sua traduzione in politica, cioè sul se è possibile fare politica autodeterminata come lesbiche, gay e trans senza dover rispondere all'obbligo di incarnare delle figure non minacciose. Che poi sono quelle in cui si condensano le richieste riformiste, cioè si condensano sempre in figure non minacciose. Per esempio, una cosa a me personalmente crea molti problemi, però magari non è condiviso, quindi prendetela con le molle, è che c'è una rappresentazione ormai sempre più esposta anche mediaticamente della lesbica pubblica che è anche madre. Cioè, per dire, è una di quelle rappresentazioni della lesbica che stanno diventando molto egemoni, no? Per dire. E secondo me è una di quelle cose che, una di quelle categorie, di quelle figure non minacciose che rappresentano il luogo in cui si coagulano la rivendicazione di certi diritti. Non so se è chiara questa cosa. Ma appunto, incarnare figure non minacciose come la lesbica madre, il gay monogamo, il trans maschio oppure la trans femmina. E appunto quello che abbiamo cercato di fare a Bologna è di partire da una riflessione più ampia sulla sessualità invece che sul genere, che invece è una parola che è intervenuta molto spesso in questo dibattito. Sessualità come espressione di desideri che non materializzano necessariamente degli scenari di futuro rassicuranti, e penso che questo si colleghi molto a quello che diceva Elena e Vittoria oggi sulla io vivo da lesbica, quindi cioè, io proietto molto questo anelito nei confronti di un'identità lesbica particolarmente eversiva, cioè eversiva di certe categorie del simbolico, che secondo me materializzano scenari non tranquillizzanti, e cioè io sento molto di assumerla su di me questa cosa, poi non so. Va bene, io ho finito, non so chi altro vuole parlare.